Letture di Radio 24. Può esistere una vera competenza in qualunque campo del sapere senza una conoscenza approfondita? È possibile saper svolgere un compito senza di fatto capire quello che si sta facendo? È il dilemma sul quale si sono dibattuti grandi personaggi della scienza, come Darwin e Turing, nel corso dei loro studi sull'evoluzione umana. E di fatto è la sostanziale differenza tra il sapere umano e il sapere meccanico dei computer. Ancora impossibile, ma non del tutto, un futuro in cui anche le macchine potranno comprendere come gli umani. È possibile inventare un'unica macchina che può essere usata per computare qualsiasi sequenza computabile. Turing, 1936. Turing non solo ha intuito che questa impresa era possibile, ha anche esattamente mostrato come realizzare questa macchina. Con la sua dimostrazione nasceva l'era dei computer. È importante ricordare che esistevano entità chiamate computer anche prima che a Turing venisse questa idea, ma erano persone, impiegati con sufficiente attitudine matematica, pazienza e passione per il proprio lavoro, da generare risultati affidabili in ore e ore quotidiane di computazione. Molti di loro erano donne. Migliaia erano impiegati nell'ingegneria e nel commercio, nelle forze armate e altrove, impegnati a calcolare tavole per la navigazione, per l'artiglieria e altre imprese tecniche del genere. Un buon modo per comprendere la rivoluzionaria idea di Turing sulla computazione è quello di accostarla a quella di Darwin sull'evoluzione. Il mondo pre-darwiniano era unito non dalla scienza, ma dalla tradizione. Tutte le cose dell'universo, dalla più elevata, l'uomo, alla più umile, la formica, il sassolino, la goccia di pioggia, erano creazioni di qualcosa di ancora più elevato, Dio, un onnipotente e onnisciente creatore intelligente che assomigliava in modo impressionante alla seconda cosa più elevata. Chiamiamo questa teoria a cascata dall'alto dell'evoluzione. Darwin l'ha rimpiazzata con una teoria a ebollizione dal basso della creazione. Una delle critiche del XIX secolo a Darwin lo chiarisce vividamente. Nella teoria con cui abbiamo a che fare, l'artefice è l'ignoranza assoluta, così che il principio fondamentale dell'intero sistema potrebbe essere: per fare una perfetta e bellissima macchina, non è necessario sapere come farla. Grazie a una strana inversione del ragionamento, sembra ritenere l'assoluta ignoranza pienamente qualificata a prendere il posto dell'assoluta sapienza in tutte le realizzazioni della potenza creativa. Si trattava, in effetti, di una strana inversione di ragionamento. Il mondo prima di Turing era un mondo in cui i computer erano persone. Persone che dovevano comprendere la matematica per fare il proprio lavoro. Turing comprese che questo era semplicemente non necessario. Si potevano prendere i loro compiti e spremere via fino all'ultima minuscola briciola di comprensione, lasciando nient'altro che mere azioni meccaniche. Per essere una perfetta e bellissima macchina da calcolo, non è necessario conoscere l'aritmetica. Quello che sia Darwin che Turing avevano scoperto, ciascuno a modo suo, era l'esistenza della competenza senza comprensione. Questo ha invertito l'assunzione, profondamente plausibile, che la comprensione sia di fatto la fonte di qualsiasi competenza avanzata. Consideriamo come Turing ha condotto la sua dimostrazione, ha preso come modello i computer umani. Costoro sedevano alla propria scrivania, facendo un passo semplice e altamente affidabile dopo l'altro, controllando il proprio lavoro, scrivendo i risultati intermedi invece di affidarsi alla propria memoria, consultando i protocolli ogni volta che era necessario, trasformando quello che a prima vista poteva sembrare un compito difficile in una routine da eseguire a occhi chiusi. Turing ha sistematicamente scomposto i passaggi semplici in passaggi ancora più semplici, rimuovendo ogni traccia di discernimento e comprensione. Egli ha così approntato un inventario di mattoni di base con cui costruire un algoritmo universale che potesse eseguire qualsiasi altro algoritmo. Si può iniziare con i semplici mattoni di base che Turing ha isolato e costruire, livello dopo livello, qualsiasi computazione più sofisticata, ripristinando così gradualmente quell'intelligenza che Turing aveva così abilmente eliminato dalle pratiche dei computer umani. Turing, come Darwin, ha scomposto il mistero dell'intelligenza, o disegno intelligente, in quelli che potremmo definire passaggi atomici di muta casualità, che, accumulati a milioni, si sommano in una pseudo-intelligenza. L'unità centrale di elaborazione di un computer non sa davvero cosa sia l'aritmetica, né capisce cosa sia un'addizione, ma capisce e comanda di sommare due numeri e mettere il risultato in un registro, nel senso minimale, che somma correttamente quanto richiesto e mette la somma al posto giusto. Diciamo che si comporta come se capisse le addizioni. Salendo di livello, il sistema non comprende davvero che sta individuando e correggendo eventuali errori di trasmissione, ma si comporta come se lo comprendesse ed esegue correttamente il lavoro richiesto. Salendo ancora di livello, quando i mattoni sono impilati a miliardi e triliardi, il programma di scacchi non capisce davvero che la sua regina è in pericolo, ma è come se lo capisse. E il computer Watson dell'IBM a Geopardy è come se capisse le domande cui risponde. Non siamo ancora arrivati a una comprensione reale nei robot, ma ci stiamo avvicinando. Questa, almeno, è la convinzione delle persone ispirate dall'intuizione di Tulving. I sostenitori della teoria a cascata dall'alto sono assolutamente certi che nessun ulteriore progresso ci condurrà a una comprensione reale. Essi pensano che una res cogitans cartesiana, una cosa pensante, non possa essere costruita partendo dai mattoni di base di Turing. Così come i creazionisti sono certi che nessun rimescolamento, copia e selezione darwiniana possa portare agli esseri viventi reali. Hanno torto, ma si può capire il disagio che motiva la loro convinzione. La strana inversione del ragionamento di Turing, come quella di Darwin, va contro la natura di millenni di pensiero. Se la storia della resistenza al pensiero darwiniano è una buona misura, possiamo aspettarci che in futuro, anche dopo che ogni trionfo del pensiero umano sarà stato eguagliato o superato da mere macchine, ci saranno ancora pensatori che insisteranno che la mente umana lavora per vie misteriose che nessuna scienza potrà mai comprendere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Daniel Delnay, pubblicato in esclusiva sul settimanale Domenica, supplemento del Sole 24 Ore, in edicola oggi. Il pentotal, la sostanza usata nelle carceri statunitensi per giustiziare i condannati a morte, scarseggia. Le aziende produttrici hanno cessato la produzione e trovare un sostituto non è affatto semplice. La carenza di pentotal è una questione di vita o di morte, letteralmente. Questo anestetico viene infatti somministrato nelle iniezioni letali previste negli Stati Uniti dalla legislazione di 35 stati. Ora, il tiopental sodico, come è conosciuto nel mondo scientifico, scarseggia sul mercato. Tanto gli impianti statunitensi quanto quelli italiani di Hospira, l'attuale fornitore, ne hanno cessato la produzione. E molte altre società si stanno tirando indietro dalla commercializzazione del prodotto per motivi etici o per paura di cattiva pubblicità. Una di queste, la danese Lundbeck, si è pubblicamente opposta all'utilizzo dei suoi prodotti per le esecuzioni. Eppure, non ha potuto evitare che un altro dei suoi preparati, una sostanza nota come pentobarbital, usata contro l'epilessia, fosse nel mix di tre droghe adottato da alcuni stati per supplire al pentotal. Con il farmaco danese, la Virginia ha giustiziato a metà agosto Jerry Jackson, condannato per lo stupro e l'omicidio di una donna di 88 anni. La questione non è tuttavia delle più semplici. Negli stessi giorni della morte di Jackson, in Arkansas, il giudice Tim Fox ha stabilito che è incostituzionale che gli istituti di correzione statali scelgano da soli il sostitutivo del pentotal. Inoltre, secondo l'Arizona Republic, esistono prove che la FDA, l'Agenzia Americana per Alimenti e Medicinali, abbia taciuto sull'importazione di pentotal da società non autorizzate se il destinatario era un carcere. Con questa confusione, gli avvocati che in Tennessee hanno visto accolti i loro appelli contro un prodotto arrivato in prigione per vie indefinite, moltiplicano i ricorsi, alimentando le speranze di una dozzina di detenuti, quelli la cui esecuzione è prevista entro il 2011. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elisa Conti, Questione letale, da IL, Intelligence in Lifestyle, numero 23.